24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui in diretta fino alle 9, riparte una settimana di 24 mattino. Oggi dalle 8:20 alle 9 parleremo di Iraq, di guerra in Iraq. Ebbene sì, perché così in sordina, come se fosse una notizia banale, di fatto i soldati americani se ne sono andati nottetempo dall'Iraq, come aveva promesso Obama, 8 anni, 8 mesi qualche giorno dopo, 9 anni di guerra, ce la siamo già dimenticata, ma qualche anno fa parlavamo quasi esclusivamente solo di guerra in Iraq, ricordate? Nassiriya, ricordate gli attentati? È stata una guerra giusta, è stata una guerra vinta, questo ci vogliamo chiedere e lo faremo con protagonisti che in Iraq sono stati e saranno qui anche nei nostri studi, questo dalle 8:20. Intanto voi potete mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 e ne parleremo più avanti. Ora, come al solito, ci tuffiamo nella lettura dei quotidiani in edicola. È lunedì 19 dicembre, vediamo intanto i titoli di apertura. Il Sole 24 Ore, tasse locali, corsa ai rincari. Questo è il titolo poco positivo per tutti noi cari ascoltatori. E poi il Corriere della Sera, la CGIL rompe con il governo. Per Repubblica, fisco la caccia agli evasori. La Stampa, sanità, ticket su misura. Come vedete le aperture, ogni quotidiano sceglie la propria. No a un'altra manovra, questo è il ministro Passera ed è il titolo di apertura del Messaggero. Per il giornale Monti, basta con gli amici. Mentre l'Unità, salviamo l'articolo 18. Come vedete ci sono varie tematiche. Intanto io voglio partire da una notizia dal mondo della casta. Il Parlamento, non è che lo dico io, i privilegi della casta è il titolo della Stampa, pagina 9. La vicenda è questa, l'incompatibilità del doppio incarico salva i vitalizi. Tranquillizzatevi cari ascoltatori, respirate a fondo. La vicenda riguarda quei parlamentari che sono anche sindaci di paesi, di comuni oltre i 20.000 abitanti. Una vicenda di cui ci siamo occupati per una sentenza della Corte Costituzionale. Questi parlamentari devono decidere, o fanno i sindaci o fanno i parlamentari. Due cose non si può. E allora, che cosa hanno fatto molti di loro, furbini o furbescamente, oppure adeguandosi a questa richiesta, hanno deciso immediatamente di lasciare il Parlamento perché hanno deciso di fare il sindaci. Quindi hanno mantenuto la poltrona di sindaco e lasciano il Parlamento. Tutto bene, direte voi, si sono adeguati a questa norma della Corte Costituzionale. Già, ma l'hanno fatto in fretta e furia di lasciare il Parlamento perché? Perché il 31 dicembre scade quel termine entro il quale poi dal 1 gennaio parte le novità sui vitalizi. Se uno si dimette dal Parlamento prima del 31 dicembre, ecco che ottiene il vitalizio secondo il vecchio sistema. Ed è qui che la Stampa vi dedica una pagina, pagina 9. Sembrava un colpo di scure, ma per qualcuno può diventare un regalino di Natale. La vicenda, appunto, che riguarda 6 parlamentari, 5 del PDL e 1 della Lega, che hanno un mese di tempo per scegliere l'incarico da abbandonare tra sindaco e parlamentare. Finalmente la fine dei doppi incarichi, ha sospirato qualcuno, mentre paradossalmente l'effetto può essere questo: dimettendosi entro il 31 dicembre c'è chi evita di rientrare nel nuovo calcolo dei vitalizi meno vantaggioso e dunque ottenere il vecchio sistema. La Stampa intervista anche Luciano Dussin della Lega, sindaco di Castelfranco Veneto, che si innervosisce, mandate a fare i conti in tasca Napolitano, tanto per cominciare. Niccolò Cristaldi, sindaco di Mazzara del Vallo e parlamentare, ho dovuto scegliere e farò il sindaco, sono soldi miei, ora mi paghino anche per fare il sindaco, cosa che ho fatto gratis finora. E Ettore Pirovano, che invece è presidente della provincia di Bergamo ed è anche parlamentare, si è dimesso e dice, ma perché mi sono dimesso? Mi annoiavo, ormai mi ero ridotto a schiacciare semplicemente un bottone, sì o no, questo facevo in Parlamento, molto più interessante amministrare la provincia di Bergamo. Vabbè, l'incompatibilità del doppio incarico salva i vitalizi, Questo lo trovate sulla Stampa, pagina 9, mentre notizie di Erika De Nardo, queste le trovate su tutti i giornali perché è una vicenda anche questa di cui ci siamo occupati. Erika De Nardo che ha finito di scontare la sua pena per il delitto, duplice delitto di Novi Ligure, ve lo ricordate certamente. Ebbene, è diciamo affidata a una delle comunità di Domazia, anche se in questi giorni, essendo libera, li sta passando a casa con il padre. Domazzi, sempre alla Stampa, ma questo echeggia anche sugli altri giornali, ha dichiarato: Erika farà l'insegnante. Ora anche lo stesso Domazzi dice: mi rendo conto che questo susciterà problemi, susciterà polemiche. Sì, lo so cosa diranno, deve insegnare proprio una che ha ucciso il fratellino e anche la madre, siamo impazziti, non può starsene buona in una comunità, non può stare zitta per sempre. Invece io vi dico che non sono impazzito, credo che quello sia il suo destino, si è laureata col massimo dei voti in carcere, ne ho la percezione, ho analizzato la sua storia, il suo vissuto, ne ho già parlato anche al magistrato. Farà l'insegnante, c'è da dire che, aggiunge Domazzi, andrà ad insegnare in Madagascar, lo farà a una serie di alunni in una comunità Exodus che hanno bisogno di alfabetizzazione, hanno bisogno di essere seguiti. Certo, la vicenda susciterà nuove polemiche, anche il giornale vi dedica già una pagina: Erika insegnerà in Africa, e andando tra l'altro dice, secondo Domazzi, spera che il padre si rifaccia una famiglia, papà risposati. E anche il Secolo XIX fa un'intera pagina: la nuova vita di Erika, da omicida a maestra dei bimbi africani, con Domazzi che dice andrà a insegnare in Madagascar. C'è anche un'intervista a Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, che dice: è un messaggio profondamente sbagliato, è meglio piuttosto che si occupi di anziani, di malati, ma è presto per fare volontariato con persone in un'età così delicata, anche se lontano dall'Italia dove ha compiuto questo duplice omicidio. 24 mattino. Eccoci qui, le 7:31 minuti. Allora, continuiamo nella lettura dei giornali e concentriamoci su quelli che sono gli aspetti della politica legati ovviamente alla manovra che è stata approvata alla Camera e mercoledì, dunque entro Natale, dovrebbe essere approvata al Senato in via definitiva. Intanto, cari ascoltatori, un'altra bella notizia: oggi sciopero, venerdì sciopero c'è stato dei mezzi pubblici, oggi si alternano altre categorie: medici, dipendenti pubblici, impiegati delle poste e insegnanti. Questo lo sciopero, varie modalità. Nella scuola ci si fermerà per un'ora al termine delle lezioni, le università invece blocco totale, i medici anche blocco totale, ci saranno garantiti per le prestazioni essenziali, ma forse le attività, se dovete andare a fare una visita, auguri, non tanto per la visita, ma penso che non riuscirete a farla. E poi i dipendenti delle poste, anche loro in 3 ore di turno finale incroceranno le braccia, quindi se andate alle poste affollatevi e ammassatevi in una lunga coda appena possibile, e in bocca al lupo, cari italiani. E allora, visto che le notizie belle arrivano una dopo l'altra, l'apertura del Sole 24 Ore di oggi: tasse locali, corsa ai rincari, aumenti in arrivo da Roma a Milano. Ebbene sì, dopo quella del governo è pronto anche il versante delle manovre locali, perché i sindaci stanno facendo i conti dei bilanci preventivi del 2012 che vanno presentati entro fine anno e cercano dunque di mettere ordine nelle cifre che, nonostante il ritorno dell'ICI sulla prima casa e l'anticipo dell'IMU, faticano a quadrare. Insomma, la notizia è questa: torna l'ICI, che quindi è una tassa comunale, l'IMU, ma nonostante ciò i comuni che sono alle prese coi bilanci preventivi del 2012 stanno pensando di ritoccare in alto le cifre. Dunque, se pensavate di averla scampata con le tasse della manovra Monti, ecco qui le tasse delle manovrine locali. Trovate tutti i dettagli a pagina 3 del Sole con Andrea Maria Candidi e Antonello Cherchi. IRPEF e tariffe, la stangata dei comuni, questo è il titolo. È un monitoraggio condotto dal Sole 24 Ore sui comuni capoluogo di regioni. Per esempio, Roma. A Roma non ci saranno ritocchi nel 2012 sull'IRPEF, ma per i romani è in arrivo l'aumento del 50% del prezzo del biglietto per le linee di trasporto urbano, che salirà da 1 euro a 1,50 euro. Con molta probabilità capiterà a giugno, cosa che è appena capitata da qualche mese a Milano. Il sindaco Alemanno poi ha annunciato l'aumento dell'aliquota ordinaria IMU, quella fissata allo 0,76% per le seconde case, anche se non ha ancora chiarito in quale misura. A Milano, invece, Giuliano Pisapia sembra intenzionato a tenere l'aliquota base per le seconde case al livello minimo consentito, cioè lo 0,46%. Però non si è ancora deciso né a Roma né a Milano a che fare con gli immobili strumentali delle imprese o con quelli locati. Sale invece l'asticella dell'IRPEF a Genova, dove l'addizionale 2012, che è ora lo 0,7%, potrebbe arrivare allo 0,8%. A Torino invece si riflette su aliquote differenziate in base al reddito, senza però intervenire su quella massima dello 0,5%, ed è in arrivo anche l'aumento sul biglietto del trasporto locale da 1 euro a 1,50 euro, dunque anche a Torino. Comunque trovate regione per regione, con uno schema, tutti i dettagli di quelle che sono le manovrine e l'aumento delle imposte locali. Insomma, visto che si parlava di sciopero, comunque si parlava di sindacati, sui giornali trovate un ampio seguito del dibattito con l'articolo 18 che torna in primo piano. Ieri il ministro Elsa Fornero ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dicendo bisogna anche rivedere l'articolo 18. Appena si tocca l'articolo 18 in Italia, ecco che la polemica si infiamma. E infatti l'Unità apre così oggi: salviamo l'articolo 18, i sindacati alla ministra Fornero, si discuta solo di lotta alla precarietà. Parlano oggi il leader della CGIL, Susanna Camusso, intervistata dal Corriere della Sera, in qualche modo una intervista che replica punto per punto all'intervista di ieri al ministro Fornero. A pagina 3, Camusso sulle pensioni, un intervento folle, il governo è supponente, è una Susanna Camusso d'attacco. Vedo che i tecnici si attribuiscono il ruolo di salvatori della patria, la realtà è che la situazione era ed è grave, ma la ricetta giusta non è quella di Monti, dice la Camusso. Grava sui soliti noti chi ha un reddito IRPEF dichiarato, in genere medio-basso, punta a far cassa rapidamente su chi non può sottrarsi e non si è mai sottratto al fisco. Di sicuro non c'è una spinta alla crescita. Noi cosa avremmo fatto? Avremmo introdotto forme serie di prelievo sulle grandi ricchezze e non misure così leggere che rasentano la trasparenza. E poi ecco qui la questione dell'articolo 18. La CGIL dice già allora, già tempi fa nel 95, quando chiede Enrico Marro fu escluso dal contributivo ai lavoratori con più di 18 anni di servizio, la CGIL già allora pensava che il contributivo pro quota potesse essere una soluzione e Sergio Cofferati lo disse pubblicamente, questo per quel che riguarda il tema delle pensioni. Ma poi, eccolo qui l'attacco al ministro Fornero, c'è una straordinaria sottovalutazione, una supponenza impressionante da parte del governo nel non capire le conseguenze della riforma delle pensioni che rappresenta un intervento brutale sui prossimi 6 o 7 anni. C'è un livello di aggressione nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che, fatto da una donna, stupisce molto. Questo dice Susanna Camusso. Al che, dopo l'ennesimo attacco, Enrico Marro chiede quasi quasi era meglio Berlusconi? No, risponde la Camusso, perché se siamo arrivati a questo punto è per colpa dei suoi governi, ma ciò non significa che questo esecutivo possa fare qualsiasi cosa. Mentre rincara la dose, Bonanni intervista il leader della CISL, intervistato dall'Unità, pagina 3, proprio sul tema articolo 18. Intanto Bonanni chiarisce la battuta che da 2 giorni circola. Quando ha detto questa manovra la faceva meglio mio zio, inizia proprio lì, da lì Massimo Franchi, senta, ci dica un po' Bonanni, ma chi è questo suo zio diventato famosissimo, visto che lei ha detto che ne sa quanto Monti? Beh, ne capisce come tutti gli zii d'Italia, risponde Bonanni, usano il buonsenso e la misura e l'ordine naturale per cui prima di caricare i più deboli si colpiscono i ricchi. E poi Bonanni sull'articolo 18 dice: sia chiaro, il nostro cruccio è il lavoro precario. il lavoro che manca. Noi sappiamo che è la buona economia che costruisce situazioni di migliori condizioni di lavoro e salario, e questa storia di dover pensare prima ai giovani è un leitmotiv che ci sta preoccupando ed irritando. Noi lo facciamo e il governo a dimenticarselo. Anche lì, anche in questo caso, visto che continuano gli attacchi, l'Unità chiede: ma era meglio Sacconi della Fornero, come il Corriere chiede alla Camusso era meglio Berlusconi? Io preferisco sempre la concertazione, risponde Bonanni. Preferisco interlocutori che, quando si confrontano con noi, fanno restare sul tavolo sempre qualcosa che si è detto o che si è chiesto. Insomma, non è che ha proprio risposto, però un pochino sì, ma non in maniera chiara, se preferiva Sacconi alla Fornero. Mentre, cari ascoltatori, è rispuntato Tremonti. Avete per caso visto Tremonti ieri apparire da Lucia Annunziata in mezz'ora su Rai 3? Sta di fatto che è riapparso Tremonti, che aveva detto parlerò quando sarà il tempo. Evidentemente il tempo è giunto per lui. Il ritorno di Tremonti. Vedo chi fa penitenza, dice Tremonti, che non è riuscito a dire, non ha detto, non ha chiarito qual è il suo futuro politico. Si era vociferato nel suo ingresso nella Lega, lui non l'ha smentito, non l'ha confermato, ha detto che uscirà un libro suo a gennaio nel quale c'è un programma politico, è stato abbastanza vago. Tutto è in grande movimento, ci sarà un programma politico, non è il mio, spero che sia quello di altri. Così ha detto Tremonti, che poi ha ingaggiato un duello a distanza con Passera, il ministro Passera, che invece ieri era da Fabio Fazio. E ha detto Tremonti: di questo passo ci vorrà un'altra manovra, un qualcosa che Passera invece ha smentito. Non ci sarà alcuna manovra. Certo, poi è un Tremonti che ha detto ci sono troppe tasse, non c'è nulla per la crescita, al che anche Lucia Annunziata ha detto: ma proprio lei, che è stato accusato di aver messo soprattutto rigore e di non aver fatto nulla per la crescita, tanto che Repubblica fa molta ironia su questa apparizione di Tremonti. Sebastiano Messina a pagina 4 scrive: due singolarissime coincidenze si sono verificate ieri esattamente alle 14:30. A quell'ora è apparso in TV un signore che ci ha spiegato che non era assolutamente necessario tassare la casa, riformare le pensioni, aumentare la benzina. Lo diceva con un tono così convincente e persuasivo che uno pensava: ma perché non l'ha rivelata prima questa ricetta magica? Purtroppo, e questa era la prima coincidenza, la manovra del governo era stata appena approvata. Chi non l'ha visto si chiederà: ma come si chiamava questo signore? Questa è la seconda coincidenza, ancora più straordinaria della prima. Si chiamava Giulio Tremonti, lo stesso nome, lo stesso cognome del ministro che fino a un mese fa scriveva le manovre finanziarie del governo Berlusconi, e voi non ci crederete, gli somigliava pure. Deve essere un segno che la fine del mondo è vicina. Così Sebastiano Messina su Repubblica. Sta di fatto che Tremonti ieri è riapparso. Come dicevo, ieri ha rilasciato un'intervista anche il mio ministro Passera. Ormai stanno parlando adesso i ministri. La stampa oggi propone un'intervista al ministro della salute Balduzzi. Passera ieri appunto era da Fabio Fazio, ha parlato, e su questo si concentra Repubblica, sulla famosa asta o beauty contest per le frequenze TV, le frequenze TV che dovevano essere al momento, secondo la previsione dell'ex ministro Romani, assegnate con un beauty contest. Ora, dopo le proteste anche da parte dell'opposizione, pare che il governo Monti sia deciso a fermare questo beauty contest e andare a una vera e propria asta. Non possiamo concedere le frequenze gratis, così ha detto il ministro Passera. Nel momento in cui si chiede un grosso sacrificio agli italiani, non è ammissibile regalare le frequenze televisive per il digitale terrestre. Tra l'altro Repubblica scrive un retroscena a firma Goffredo De Marchis che parla della disperazione di Berlusconi. Viene attribuita a Berlusconi questa frase: questa sì che è una legge ad personam, una ritorsione contro di me. Voglio vedere come si attirano gli investimenti stranieri in uno Stato che cambia le regole in corsa. Un Berlusconi che è dato per furibondo per questo cambiamento da parte del governo Monti. Tra l'altro, con un articolo di Giovanni Pons a pagina 7 viene raccontata anche quella che sarebbe la strategia, la nuova strategia del ministro Passera, vale a dire fermare il beauty contest, cioè quella gara impostata, quella non gara, che era stata impostata dal suo predecessore Paolo Romani, e fermare tutto per un anno, prendere un po' di tempo, capire come valorizzare al meglio la risorsa scarsa come le frequenze TV senza regalare niente a nessuno. E in ogni caso l'idea che si sta formando passera è quella controcorrente al pensiero dominante, e sarebbe quella di riconvertire le frequenze e assegnarle magari tra un anno agli operatori telefonici che stanno conoscendo un forte sviluppo della tecnologia in mobilità bisognosa di frequenze. Dunque il ministro vuole la pausa di un anno e coinvolgere gli operatori telefonici, questo è il titolo dell'articolo a pagina 7. Insomma, la vicenda delle frequenze televisive torna davvero in prima pagina e in primo piano. Noi, come detto, parleremo con uno sguardo, un orizzonte più allargato, cercheremo di guardare quello che sta succedendo all'estero, in particolare in Iraq. Questo lo faremo dalle 8:20 con ospiti per raccontarci, ovviamente in sintesi, 9 anni di una guerra che è finita, ed è finita, io ho detto nottetempo, perché così è successo, all'alba, di nascosto, l'addio all'Iraq. Questo è il titolo dell'articolo di oggi di Franco Venturini sul Corriere della Sera. Le ultime truppe americane lasceranno il paese entro la fine del 2011, entro la fine di questo mese, e proprio hanno fatto l'ultimo viaggio di nascosto, quasi fuggendo, ovviamente per motivi anche di sicurezza, hanno abbandonato il paese. 9 anni di guerra, che guerra è stata? Intanto una guerra giusta, di questo ci occuperemo alle 8:20, ma dalle notizie dagli esteri riparteremo dopo il traffico. E allora, 9 anni quasi di guerra in Iraq, dal 20 marzo 2003 al 18 dicembre 2011, ieri una colonna filmata, tra l'altro c'è una foto anche sul Corriere della Sera, pagina 17, del segretissimo viaggio notturno dell'ultimo reparto americano che lascia il paese, dove dopo quasi 9 anni di guerra sono quasi 5.000 i morti tra gli alleati, secondo alcune stime 100-150.000 i morti civili, civili e non civili anche, insomma, i morti iracheni, una spesa ovviamente di migliaia di miliardi di dollari. E tutti a chiedersi, Franco Venturini oggi lo fa sul Corriere della Sera, certo Obama potrà vantarsi nella campagna elettorale di essere riuscito a mantenere la promessa di uscire dalla trappola irachena entro la fine del 2011, potrà continuare a sostenere che quella voluta da George Bush e Tony Blair è stata per l'America e il mondo una guerra sbagliata, al suo attivo è giusto mettere l'abbattimento di un tiranno feroce come Saddam Hussein, ma certo sull'altro piatto della bilancia ci sono 5.000 morti tra le truppe alleate, decine di migliaia o centinaia di migliaia tra i morti iracheni, una montagna di miliardi di dollari di spesa. Insomma, ci chiederemo anche questo, che guerra è stata. Anche il giornale dedica una pagina, firma Luciano Gulli, che era in Iraq, inviato in Iraq quando cadde la statua di Saddam Hussein, era il 19 aprile del 2003, addio all'ultimo soldato americano, sorge l'alba del nuovo Iraq. Per quel che riguarda le notizie dall'estero troverete anche notizie di un altro addio, invece la scomparsa del primo presidente della Repubblica Ceca dopo il comunismo, vale a dire Václav Havel, addio al drammaturgo politico, tutti giocano in questi ritratti, questo era il titolo della Stampa, in questi ritratti che trovate di Havel sul fatto che è stato anche un drammaturgo, ha studiato teatro e poi appunto è diventato presidente. Il rivoluzionario di velluto invece è definito sul Corriere della Sera, certo trovate 2 pagine dedicate un po' dai vari giornali sulla figura di Václav Havel. Io però vorrei anche un'altra notizia che proviene dall'estero, la trovate sulla Stampa, perché è molto emblematica. Pensate sempre a quello che succede in Italia quando vi leggo questa notizia, che proviene dalla Germania, riguarda il presidente della Germania, Christian Wolff. Wolff nei guai per una vacanza. Il presidente Wolff pare ormai certo che abbia mentito nel 2008, quando era governatore della Bassa Sassonia, con la novella sposa trascorse la luna di miele nella villa di un manager, in provincia di Livorno senza pagare un centesimo, nota la Bild, e poi fece un viaggio in Florida pagando il regolare biglietto in economy, ma ebbe l'upgrade in prima classe. La differenza del biglietto, la differenza, la pagò un manager. E poi ancora, ebbe secondo le accuse un prestito privato da 500.000 euro per comprarsi una casa da un imprenditore che gli garantì condizioni di gran lunga più favorevoli rispetto a quelle delle banche. E lui ora si difende dicendo: non mi diede i soldi quell'imprenditore, ma sua moglie. Sta di fatto che la difesa pare ormai crollare, e per Wolf, per questa vacanza o qualche viaggio pagato, c'è quasi certamente l'orizzonte delle dimissioni. Si dovrà dimettere, è molto probabile. La notizia che non trovate ovviamente sui giornali, che proviene dall'estero, più importante però è la morte del dittatore della Nord Corea Kim Jong-il. È avvenuta nella notte, o meno l'annuncio è stato dato nella notte, è la notizia che anche nei giornali radio stiamo dicendo, e certo però questa non la trovate ovviamente sui giornali. Per tornare un attimo alla cronaca italiana, vi voglio segnalare le polemiche, sono da qualche giorno che vanno avanti, sulla questione del sovraffollamento delle carceri italiane e come cercare di ovviare a questo che è sicuramente un problema. Ieri il Papa è stato a Rebibbia nella tradizionale messa celebrata in carcere, celle affollate, è una doppia pena. Anche il Papa Benedetto XVI dunque è intervenuto su questo tema: il governo renda più umana la vita dei carcerati. Ovviamente i carcerati e detenuti al grido di amnistia sperano, è comprensibile da parte loro, un provvedimento di questo genere, ma certo c'è Repubblica che torna con Liana Milella sul ruolo del ministro della giustizia Paola Severino, che su questo ha lanciato un decreto approvato venerdì che prevede tra l'altro che gli arrestati, anziché andare in carcere, rimangano per 48 ore nelle sale di custodia, dunque non so, nelle questure. Inoltre prevede che chi commette reati non gravi e deve scontare ancora 18 mesi li passerà ai domiciliari, dunque gli ultimi 18 mesi di pena ai domiciliari, questi per i reati non gravi, per svuotare un po' le carceri. E poi per condanne fino a 4 anni si potrà evitare il processo facendo lavori socialmente utili. Ovviamente su questi temi, quando si parla di giustizia e carceri, tornano gli scontri e le polemiche. Mentre un annuncio di cronaca ve lo do dalla scuola: dopo 13 anni tornano i concorsi. Attenzione, questa notizia che dà Repubblica, Corrado Zunino in prima pagina, è la proposta del ministro Profumo, che starebbe studiando questo, mettere a punto un piano per sfatare questo tabù della moderna pubblica funzione, il reclutamento dei docenti. La scuola pensa, dopo 13 anni, di tornare ai concorsi, è una notizia che certo interesserà moltissime persone in Italia. I candidati sarebbero, secondo le prime stime del Ministero, 300.000. D'altronde il ministro Profumo ha detto: servono docenti giovani, oggi l'età media degli insegnanti è intorno ai 40 anni, va abbassata per venire incontro alle esigenze delle nuove leve laureate e degli stessi studenti. E dunque la scuola pensa al ritorno dei concorsi dopo 13 anni. Concludo dicendo, vabbè, il calcio, la Gazzetta dello Sport, testa Juve e cuore Inter, questo è il titolo di apertura. Hanno vinto ieri Juve e Inter, dunque una giornata che non ci interessa granché dal punto di vista calcistico. Concludo, dice Peter, ha vinto il Milan, ma ha vinto sabato il Milan. E concludo invece con la gaffe o non gaffe che ha fatto il presidente della provincia di Como, Leonardo Carioni, non sapendo che c'era una telecamera a riprenderlo, ha fatto questa affermazione relativa a un commento sulla possibile eliminazione delle province. Come la risolveranno? Ha detto il presidente della provincia di Como, della Lega: manderanno qualcuno da Reggio Calabria. Ovviamente da Reggio Calabria il sindaco Scopelliti e non solo si sono molto infuriati. Reggio Calabria finisce in TV, ne parla il quotidiano nazionale. La gaff leghista infiamma il sud. Presidente della provincia di Como, dai, Reggio Calabria. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua allora alle 8:21 minuti. Come detto, oggi fino alle 9 vogliamo parlare di Iraq, vogliamo allargare un po' i nostri orizzonti, vogliamo guardare all'estero, perché troverete anche sui giornali il resoconto di come le ultime truppe americane stiano lasciando proprio in queste ore il paese. Sul Corriere della Sera all'alba di nascosto l'addio all'Iraq con il viaggio notturno segretissimo dell'ultimo reparto americano che ha abbandonato il paese, come aveva detto Obama, lasceremo entro la fine del 2011. Quasi nove anni di guerra anche con alcune cifre emblematiche. Beh, intanto circa 5.000 i morti tra i soldati americani, le stime delle vittime irachene sono veramente stime, c'è chi dice si spinge fino a 150.000, 800 miliardi di dollari, anche qua alcune stime di spesa. Una guerra giusta? Ne è valsa la pena? 800 24 00 24, questo è il numero se volete chiamarci e dire la vostra. Noi ne discuteremo intanto con un ospite che qui è fianco a me in studio. Si tratta di un ritorno per me molto gradito, gli amici di Radio 24 lo ricordano, Franco Pagetti, che saluto. Franco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Franco Pagetti è un fotoreporter internazionale dell'agenzia Seven, è stato sei di questi quasi nove anni trascorsi embedded, come si dice, cioè con i soldati americani, proprio a fianco ai soldati americani. Embedded e non, diciamo, però sei anni in Iraq, l'ha vista questa guerra con i propri occhi, l'ha vista anche, e lo voglio salutare, Vittorio De Rasis, buongiorno, è con noi collegato al telefono. Buongiorno De Rasis. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei è luogotenente dei carabinieri in pensione e dico subito una località che tutti gli italiani ricorderanno, Nassiriya, sopravvissuto all'attentato di Nassiriya, è così De Rasis? Sì, effettivamente è così, dottor Milano. Senta, lei a Nassiriya di quel giorno che ricorda? Allora, quel giorno, il 12 novembre del 2003, io mi trovavo nella palazzina della base maestrale. Io ero uno dei comandanti di una squadra info investigativa e mi trovavo al piano terra. E stavo raccogliendo su un dischetto tutte le relazioni di servizio che avevamo fatto nell'arco dei 4 mesi che eravamo rimasti là a Nassiriya. Quando ad un tratto abbiamo sentito una raffica di Kalashnikov e subito dopo uno dei colleghi che stava con me nella stanza ha urlato di buttarci a terra perché ci stavano attaccando. Immediatamente dopo abbiamo sentito un colpo di mitragliatrice pesante, era una raffica di MG che il carabiniere Ghitti, uno dei nostri carabinieri che purtroppo è morto là nell'attentato, aveva sparato contro il camion che stava venendo, che stava entrando dentro la base. Il camion con l'esplosivo. Con l'esplosivo, esatto, erano 4.000 chili di tritolo, almeno dalla commissione d'inchiesta fatta erano 4.000 chili. E a un certo punto, io mi sono visto il muro venire in faccia, e mi sono trovato il naso staccato a metà e varie ferite sul corpo. Ecco. Senta, ieri poi ci siamo scambiati 4 chiacchiere al telefono, lei ha detto da quel giorno in pratica l'Italia ha dimenticato le persone vittime, non solo vittime, quelli che hanno perso la vita, ma anche le persone che sono tornate ferite dall'Iraq. Sì, effettivamente questo è un rammarico che mi porta appresso da quel giorno in poi, perché noi feriti siamo stati un pochettino dimenticati, ecco, dalle istituzioni. Io non parlo del comando generale dei carabinieri perché effettivamente loro sono stati vicini, ma altre istituzioni ci hanno proprio abbandonati. Questo è un problema, e vorrei per un attimo venire qui in studio da Franco Pagetti, è un problema che certo riguarda in numeri più ampi anche i soldati americani. Oggi noi vogliamo chiederci se la guerra sia giusta, se questa guerra sia stata giusta, se questa guerra sia stata vinta oppure no, con persone che l'hanno vista, no? in varie modalità diverse. Franco, ci si chiede, per quel che riguarda di tanti anche soldati, soprattutto soldati americani che hanno perso la vita, poi parleremo anche dei civili iracheni ovviamente, se questo sia un prezzo che ne è valsa la pena pagare. La guerra, qualcuno disse che la guerra è il risultato di fallimenti precedenti e quindi non è mai una cosa positiva. Quello che è successo in Iraq una guerra giusta direi di no, non sono state trovate le armi di distruzione di massa. Saddam era un dittatore come ce ne sono tanti nel mondo, e l'unico svantaggio che aveva l'Iraq è di avere molto petrolio, tantissimo petrolio di ottima qualità, è distribuito lungo tutto il territorio, escluso purtroppo, che è quello che creerà i problemi, nel territorio sunnita. Quindi una guerra giusta no. Quello che succederà lo vedremo tra non molto, perché secondo me il risultato è stato di aver consegnato l'Iraq all'Iran e di creare un canale praticamente fino al Mediterraneo di una nuova potenza emergente sciita, che è l'Iran, Iraq, Hezbollah. E non dimentichiamo che lungo le coste del Golfo Persico la minoranza sciita in Arabia Saudita è repressa, ma è dove ci sono i pozzi di petrolio. Ecco, tra poco magari ci racconterà anche cosa vuol dire vivere 6 anni in un paese in guerra, ma in generale tu hai incontrato tantissimi soldati americani con i quali so che sei ancora in contatto. Che aspirazioni avevano? Chi erano questi giovani che sono andati in Iraq? Alcuni purtroppo hanno perso la vita. Beh, io in generale non amavo molto i militari, devo dire. L'Iraq per me è stata una grande lezione di vita, più che professionale, e ho molto rispetto per i militari. Concordo pienamente con quello che ha detto precedentemente il luogotenente. L'ultimo viaggio che ho fatto in Iraq nel 2008 sono stato proprio in Siria. E in quel momento io mi sono vergognato un po' di essere italiano, per come le nostre istituzioni avevano abbandonato il ricordo di questi militari che ci avevano lasciato la pelle. Alcuni se le portano come luogotenente tuttora sulla proprie spalle questo dramma, e non c'era neanche una targa, non c'era nulla che ricordasse questi nostri ragazzi, e quindi era una roba veramente che mi ha disgustato, cioè soprattutto dopo aver visto queste immagini di finti pianti nelle chiese, questi proclami, cioè mi sembrava una propaganda d'altri tempi, utilizzare dei morti per farsi una propaganda politica o elettorale e il giorno dopo dimenticarsi che sono esistiti. Ed è una cosa che noi non dovremmo invece mai dimenticare. È stato un po' così, luogotenente De Rasis, si riconosce. Effettivamente c'è ragione il suo interlocutore, effettivamente è stato così. Noi per esempio, dopo, appena finito dopo i funerali del 17 novembre, chi si è visto, ecco, effettivamente è stato così, aveva perfettamente ragione. Poi, infatti pure i colleghi che sono ritornati nel 2007 da Nassiria si sono lamentati del fatto che al posto della base maestrale non c'è stato niente che ricordasse quell'evento. Noi fermiamoci un attimo qualche minuto, poi quando ripartiamo ci raggiungerà anche il generale Carlo Cabigiosu, che è stato consulente del governo italiano in Iraq, è un generale di lungo corso, è un generale che ha comandato anche il CO, il Comando Operativo Interforze, vale a dire tutto quel comando dell'esercito che controlla tutte le missioni italiane all'estero dei nostri militari. Insomma, cercheremo di capire qualcosa di più di questa guerra. Questo vi chiediamo come domanda a voi ascoltatori, a noi che siamo, l'abbiamo vissuta qui dall'Italia attraverso i mezzi di informazione: se pensate che questa sia una guerra che sia stata vinta, una guerra che è stata giusto fare. Sono passati 9 anni, c'era un altro presidente americano, c'era Bush, ora c'è Obama, e di questo ci interroghiamo tra qualche minuto. Allora, eccoci qua, sono le 8:35 minuti, stiamo parlando di 9 anni quasi di guerra in Iraq, con le immagini, trovate anche una foto esemplificativa oggi sul Corriere della Sera dell'ultimo viaggio notturno, dell'ultimo reparto americano che lascia il paese. Rimarranno davvero pochissimi militari dalla fine del 2011. Insieme al luogotenente dei carabinieri Vittorio De Rasis, scampato, sopravvissuto all'attentato in Assiria, e insieme a Franco Pagetti qui in studio, che è fotoreporter dell'agenzia Seven, ci ha raggiunto, lo saluto, il generale Carlo Cabigiosu. Generale, buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, la domanda che ci poniamo tutti e che si pone la gente della strada è se sia stata una guerra giusta e se sia stata una guerra vinta. Certo, è una domanda un po' imbarazzante, perché se si fanno i conti di quelli che erano gli obiettivi iniziali di questa azione che hanno intrapreso gli Stati Uniti e quali sono state poi le conseguenze, ovviamente il bilancio è abbastanza deludente. L'obiettivo principale è stato raggiunto, cioè quello di abbattere la dittatura di Saddam Hussein, ma il costo è stato eccessivo e ci sono state anche delle conseguenze strategiche, come è stato accennato prima, delle quali ancora è difficile valutare le conseguenze, cioè dare in mano all'Iran la regione attraverso la setta degli sciiti. Quando due giorni fa sul Corriere della Sera Fareed Zakaria, che è un analista militare americano, ha detto proprio questo: è vero, l'unica questione sono i costi molto alti, sia in termini umani e sia in termini economici, è brutto metterli sullo stesso piano, ma di fatto così è. Però certo l'aspetto positivo è che in quell'area del mondo ci siamo liberati da un dittatore. Generale, è un discorso molto pragmatico, un discorso che regge, o che fino a che punto regge? La speranza era quella che con la caduta di Saddam Hussein sarebbe iniziato anche un processo di democratizzazione e modernizzazione di tutti gli stati, islamici. È successo adesso, è successo l'anno scorso con la primavera araba, ma si pensava che potesse essere un risultato conseguibile subito, non appena gli americani avessero abbattuto il regime di Saddam Hussein. Invece ci sono voluti anni e anni per arrivare a questo risultato, non tanto attraverso quella che è stata l'azione militare degli Stati Uniti, quanto attraverso invece un risveglio, di certi valori nell'ambito di quei paesi che fino a quel momento erano stati soggetti a totalitarismi, dittature, eccetera. Cioè capire se questa operazione può aver dato una spinta, oppure se invece è stato un risveglio, se si vuole, delle popolazioni locali. Si parla di Egitto, Tunisia, dei paesi del Mediterraneo. Esattamente. Per quello che riguarda l'Iraq di per sé, c'è arrivato a un cambiamento importante, ma il costo è stato estremamente elevato, non solo da parte di quelle che sono state le forze della coalizione a guida statunitense, ma anche un costo elevatissimo da parte della popolazione irachena. Le stime sono circa 150.000. Franco Pagetti, tu tra l'altro hai vissuto proprio con i soldati americani. Io lo so che di queste cose Franco Pagetti non è che vuole parlare, cioè delle però insomma, avere una persona che è stato 6 anni in Iraq e essere stato a contatto con anche le tragedie quotidiane della guerra è un'opportunità. Ci puoi raccontare proprio com'era la vita di questi soldati americani, che poi era la vita tua per gran parte della giornata, e quali erano le speranze, i sogni, le ambizioni dei soldati che erano lì per combattere? I soldati eseguono degli ordini, sono stati mandati in Iraq dai loro presidenti, chi dal presidente del consiglio, chi dai loro presidenti. Si può dividere la guerra in Iraq in due fasi: la fase che va dall'abbattimento della statua di Saddam il 9 aprile alle 5:30 in Fadus Square davanti al Palestine, e dopo la battaglia di Fallujah. Fino alla battaglia di Fallujah c'era un grande entusiasmo, veniamo a portare la libertà. Battaglia di Fallujah che Franco Pagetti ha seguito embedded con il primo Marines. Dopo la battaglia di Fallujah c'è stata una fase calante di questo entusiasmo, che coincideva con il cambiamento di atteggiamento della popolazione americana negli Stati Uniti rispetto a quelli che erano i reduci dell'Iraq, per l'incombere della crisi economica negli Stati Uniti, di cui già si sentiva una specie di brezza arrivare, e per il protrarsi della guerra. Tutti si ricorderanno il presidente Bush che atterrò sulla porta aerea americana dicendo: la guerra è vinta, la guerra è finita. E da quel giorno cominciarono a scoppiare mine, autobombe, cecchini. Gli americani hanno perso quasi 5.000 uomini, è vero, ma tutti si dimenticano, perché è più facile dimenticare che ricordare, degli oltre 100.000 feriti che gli americani hanno avuto, di cui 30 o 40.000 di questi sono rinchiusi in ospedali, sono tenuti in ospedali psichiatrici perché per i danni e i traumi della guerra, e sono oltre 100.000, sono 100.000 giovani americani che non potranno più avere una vita normale. E quindi c'è stata questa fase calante. Non sono così sicuro che noi hanno abbattuto un dittatore, ma non sono così sicuro che si sia riconsegnato l'Iraq alla democrazia. Su questo anche il generale americano che ha seguito l'ultimo ritiro ha detto: in questo momento l'Iraq non sarebbe in grado di gestire un attacco dalle frontiere esterne. Neanche interne. Sì, beh, certo, c'è la tensione sciiti e sunniti. Sentiamo un paio di ascoltatori che ci hanno chiamato, sentiamo che cosa ne pensa la gente di questa guerra. Silvio da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io la penso esattamente come il luogotenente dei carabinieri, sì, ha detto esattamente quello che volevo dire. Volevo aggiungere solo che, diciamo, essendo coscienti di aver sbagliato, loro hanno continuato, questo è il discorso, perché non hanno trovato le armi di distruzione di massa, però hanno continuato. C'è stata solo la nota positiva, appunto, come diceva il generale, della distruzione di Saddam, però bisogna vedere se è così oppure no. Grazie Silvia. Andiamo a Verona da Simone. Buongiorno Simone. Buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti. Niente, io volevo solamente dire grazie al luogotenente dei carabinieri, perché io sono stato in Somalia ormai quasi 20 anni fa e so cosa vuol dire partecipare a una missione all'estero per conto del proprio paese, e so anche che amarezza si prova tante volte quando si è là e si leggono i giornali con dei commenti assolutamente non condivisibili, per usare un eufemismo, perché si è là, ed io lo ricordo molto bene, si è là per non per fare la guerra, si è là per aiutare la popolazione sostanzialmente a migliorare la propria condizione. Io è stata la prima volta nella mia vita in cui ero felice di essere italiano per quello che facevamo. Una volta ho chiesto a un signore anziano che parlava italiano, visti i nostri trascorsi in quei posti, e gli ho detto: ma guardi, noi abbiamo fatto 10.000 chilometri, siamo lontani dalle nostre famiglie, qui ci sparate addosso, ci tirate le pietre, eccetera, perché? E questo signore mi ha risposto: perché se non arrivavate voi saremmo tutti morti. E nel giro di qualche mese, da quando siamo scesi giù, la vita l'abbiamo vista riprendere. Se posso dire anche l'ultima cosa, rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore che mi precedeva, il continuare è l'unica cosa giusta, nel senso che se si va là e si interviene, andarsene via subito. A metà. Grazie Simone. E su questo voglio ripartire dopo, anzi no, prima del traffico vorrei chiedere al generale Cabigioso questo. Il luogotenente De Rasis ci ha raccontato anche dell'abbandono da parte che sente lui, come altre vittime sopravvissute in Siria, da parte delle istituzioni. Lei, generale, è stato appunto anche a capo del comando operativo Interforze, che controlla tutte le missioni italiane all'estero. Questo è un problema con cui fare i conti? È una cosa, diciamo, che non è totalmente condivisibile dal mio punto di vista, perché bisogna vedere che cosa vuol dire essere dimenticati. Io credo che da un punto di vista dell'assistenza sanitaria, economica, questa ci sia, continui anche dopo anni dagli eventi che hanno colpito eventualmente qualcuno dei nostri soldati o le loro famiglie. Certo che il ricordo, che invece dovrebbe essere diciamo tenuto vivo per quello che è stato il sacrificio fatto da tanti, tende un po' ad attenuarsi nel tempo, ma questo succede anche per altre cose nel mondo in cui viviamo. Tutto passa, tutto è fugace, e quindi mantenere riconoscenza per chi ha speso tanto per il proprio paese non è una cosa semplice. È una questione di ricordi che, diciamo, vanno via con il passare del tempo. Ripartiamo da qui, dopo il traffico sentiremo il luogotenente De Rasis e dal nostro Franco Pagetti ci faremo raccontare anche un po' di cosa vuol dire la vita in Iraq, la vita in un teatro di guerra. Vuol dire anche avere a che fare ogni giorno costantemente con la propria sicurezza personale. Allora, luogotenente De Rasis, ha sentito, cioè, la questione, dice il generale Cabigiosu, l'assistenza, l'aiuto, questo c'è dal punto di vista economico, anche da questo punto di vista c'è l'abbandono da parte dello Stato? Allora, io su quello che ha detto il generale Cabigiosu sono parzialmente d'accordo. Effettivamente a livello economico e a livello, diciamo, sanitario, noi siamo stati aiutati, perché il governo di allora ha fatto una legge apposta per noi. Quindi su questo d'accordo, però io quello che voglio dire, i 19 morti che sono nati di Nassiria, no? Non gli è stata concessa, questa purtroppo è una polemica vecchia, la medaglia d'oro al valor militare, solo perché, come dice la legge per la concessione delle medaglie d'oro, deve essere fatto un atto di eroismo. Beh, io adesso non voglio dire che non è stato fatto un atto di terrorismo effettivamente, però ricordo che c'è una legge, una proposta di legge, sì, fatta da 21 deputati presso la Camera dei Deputati, per la concessione delle medaglie d'oro. Ma è una questione De Rasis, mi perdoni, è una questione di medaglia, è una questione così dirimente la medaglia per lei. No, glielo chiedo, guardi, glielo chiedo proprio. La medaglia, guardi, forse non ci siamo capiti, la medaglia non è la medaglia in se stessa, sì, perché la medaglia non è altro che il ricordo, ecco. Sì, sì. Ho preso l'idea. Certo, no, ma infatti è questo. Io tra l'altro l'ho chiesto a tutti, non l'ho chiesto a lei. Non è stata una guerra giusta, secondo lei, una guerra da combattere dal suo punto di vista? Guardi, io a livello politico purtroppo non posso dare, perché non sono un politico. Io dico solo una cosa, che noi siamo andati là a fare quello che il governo e il nostro comando ci ha detto di fare. Penso, e di questo ne sono convinto, l'abbiamo fatto benissimo, sia io che i colleghi che sono andati dopo di noi. L'unica cosa che è mancata, secondo me, questo lo posso dire, sì, tranquillamente, è che non c'erano state le organizzazioni umanitarie non governative che a dare supporto alla popolazione. Ecco, questo non ho capito, perché non sono intervenute le organizzazioni umanitarie. Beh, perché venivano sgozzati, luogotenente? Guardi, su questo non sono d'accordo, almeno per Nassiria non sono d'accordo, guardi, perché noi a Nassiria giravamo tranquilli per le strade, dopo è successo quello che è successo, però lei me l'insegna, non sono stati gli iracheni che hanno fatto l'attentato. Però sa, lei girava giustamente con la protezione delle armi, le organizzazioni non governative non vanno con il supporto dell'esercito. In ogni caso, io vorrei chiedere a Franco Pagetti, perché si va, lo so che la domanda se vuoi è anche un po' stupida, ma la faccio lo stesso, perché si va in guerra per fare una foto, e quando si deve fare una foto non la si può fare da 100 metri, la si deve fare da 10 metri, se non da 5, se non da 3 o da 2? Perché il mio lavoro è fare il fotografo, così come i militari ricevono degli ordini, bene o male noi riceviamo gli ordini dai nostri capi redattori o dai photo editor, ma si va perché si vuole documentare quello che succede, cioè è una specie di desiderio, o chiamiamolo anche arroganza, di voler essere un po' colui che ti riporta, così come i grandi viaggiatori del passato riportavano e dipingevano, riportavano notizie che poi venivano dipinte su quadri, affreschi, per documentare le battaglie, e che facevano parte della storia del passato, che è la nostra storia di adesso. Così uno che fa il fotografo va in Iraq, in Afghanistan, per documentare, questo, portare delle notizie. Questo vuol dire anche mettere a repentaglio la propria sicurezza, la propria vita. Sì, ma non ci si pensa, perché quando si lavora si pensa al proprio lavoro. Lo dicevamo prima con Alessandro. A me capita di rivedere spesso le foto che ho fatto in Iraq, e oggi mi dico che forse certe volte ho oltrepassato la linea rossa della sicurezza, della prudenza, E lì scattano diversi motivi, perché sei con un gruppo di militari di cui ti fidi di più di rispetto ad altri, perché l'impeto di quello che sta succedendo ti porta a ragionare meno, perché hai voglia di fare il tuo lavoro. Cioè, tutti noi abbiamo l'ambizione di fare bene il nostro lavoro. Io credo che alla base di ogni fotografo, soprattutto dei fotografi che seguono i conflitti, ci sia veramente solo il desiderio di far vedere quello che succede e lasciare poi agli altri giudicare senza prendere parte. Però quando prima parlavamo, prima di andare in onda, tu hai raccontato una consuetudine che hai, anche se vai al ristorante a Milano. Dice: io entro e non metto mai la schiena verso la vetrina o verso l'entrata. Cos'è questo? Una deformazione professionale o un sintomo di essere in qualche modo anche vittima di una guerra? Beh, probabilmente è la seconda ipotesi, cioè ho delle reazioni mie istintive che mi derivano forse dagli anni passati in Iraq. A parte non mettersi mai con le spalle verso la vetrina, non schiaccio mai una lattina di Coca-Cola per strada, cioè o non do un calcio a una lattina di Coca-Cola per strada, perché in Iraq potrebbe perché costare in Iraq la vita. Poteva costarti la vita. Se una persona mi guarda troppo insistentemente, subito ho una reazione di paura, di timore. Perché sono stati sei anni di intensi, ci passavo 8-9 mesi all'anno, e quindi sono giornate che mi porto con me, me ne porterò per sempre. Lei, luogotenente De Rasis, che tipo di conseguenze ha pratiche? Ieri ne abbiamo parlato di quell'attentato in Siria. Effettivamente, come le avevo detto, non appena sento qualche botto, qualche forte rumore, ho paura. Questa è la cosa che mi è rimasta di più impressa del fatto di Nassiria. Ecco, questo, ma giustamente come diceva anche il fotoreporter, è una cosa che mi porta spesso dal 2003. Senta, generale Cavigiosu, per concludere, secondo dal punto di vista americano e come scenario dunque internazionale, Obama può dire: abbiamo mantenuto la promessa di questa amministrazione di togliere tutti i soldati entro il 2011. Questo può valere anche in campagna elettorale come strumento e come arma per vincere nuovamente le elezioni? Ma credo che questo faccia parte di una strategia elettorale che il presidente Obama sta curando in modo particolare in questo momento, anche per quello che riguarda la promessa fatta di lasciare l'Afghanistan nel 2013, che poi coincide più o meno con la data delle elezioni. Sicuramente per il popolo americano queste guerre sono gravose sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista economico, ma in qualche modo gli Stati Uniti vorranno anche tener fede a quello che è il ruolo internazionale che loro svolgono. Finora, anche con degli errori talvolta gravi, però sono stati sicuramente un punto di riferimento per tutte quelle minoranze, quei gruppi sociali, quei popoli che soffrono perché sono oppressi. Diciamo che una volta si parlava del miglioramento della propria situazione avendo come simbolo il Sol dell'Avvenire. Oggi ci sono forse meno disuguaglianze sociali nei nostri paesi, ma in tanti altri paesi dell'Asia e dell'Africa in particolare ci sono tanti popoli che guardano da qualche parte sperando che qualcuno vada ad aiutarli a migliorare la loro situazione. Allora, e sicuramente gli Stati Uniti rappresentano ancora in qualche modo questa immagine. Io qui mi devo fermare ringraziando il generale Cavigiosu, Franco Pagetti, fotoreporter dell'agenzia Seven, e Vittorio De Rasis, luogotenente dei Carabinieri, sopravvissuto a Nassiria. Mi devo fermare davvero, ci troviamo domattina alle 7:20.